Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di moneta, parliamo della nostra moneta, parliamo dell'euro, dell'Europa e dell'Italia nella crisi dell'euro. Il libro a cui ci riferiamo è Il vincolo stupido, scritto da Marcello Degni e Paolo De Doanna. Buonasera, professor Degni. Buonasera. Marcello Degni è docente della Scuola Nazionale di Amministrazione, è autore di numerose pubblicazioni sui temi di finanza pubblica, ha partecipato all'unità di valutazione finanziaria istituita dal presidente Ciampi a suo tempo, insegna contabilità pubblica all'Università di Pisa. E buonasera al professor De Doanna. Buonasera. Il professor De Doanna è consigliere di Stato dal 2011, ha diretto il servizio bilancio del Senato, è stato il capo di gabinetto del ministro Ciampi quando è stato ministro del Tesoro, poi del ministro Tommaso Padoa-Schioppa quando è stato ministro dell'Economia e delle Finanze, quindi una lunga esperienza di entrambi in questo ambito, nell'ambito della moneta, nell'ambito della gestione delle finanze pubbliche. E allora chiediamo subito a Marcello Degni perché questo titolo, Il vincolo stupido. Beh, questo titolo abbiamo voluto fare un omaggio al professor Prodi, che è una frase che disse Prodi nel lontano 1982, quando era presidente della Commissione europea, a una domanda che gli rivolse allora il giornalista di Le Monde proprio sui vincoli europei. E lui disse proprio: i vincoli vanno interpretati perché in quanto tali sono rigidi e quindi in quanto rigidi stupidi. E quindi abbiamo voluto, ci è sembrato che nel dibattito di questi anni questa questione si sia accentuata e quindi ci sembrava molto ficcante questo titolo. Ecco, un'affermazione di Prodi di qualche anno fa, nel frattempo non è cambiato molto, anzi forse è cambiato qualcosa, nel senso che si sono accentuati i problemi più che individuate le soluzioni, professor De Doanna. Ma sì, diciamo che probabilmente Maastricht era nata con un'idea di convergenza continua, graduale nel tempo, che facesse appello un po' alla capacità degli Stati di mettere insieme equilibrio, solidità e solidarietà. Poi nel tempo le crisi hanno accentuato degli aspetti emergenziali e quindi è come se fosse prevalsa una risposta normativa negli ultimi anni, soprattutto dopo il 2005, e quindi da un'interpretazione che poteva essere più intelligente del patto di stabilità si è passati a un'interpretazione fortemente normativa, un profluvio di norme specifiche, regolamenti, ce ne sono circa 8 che si susseguono nel giro di 2 anni, e una marea di vincoli, e purtroppo anche dal punto di vista applicativo tutto questo non è semplice, ha avuto un effetto, ormai i fatti lo dimostrano, abbastanza negativo sull'andamento dell'economia europea. Ecco, questo non significa che non bisogna puntare alla trasparenza, alla stabilità e alle finanze pubbliche sotto controllo, ma tra il controllo e un vincolo assolutamente meccanico e rigido probabilmente c'è uno spazio che va ripreso, insomma. Ecco, questo libro è particolarmente dedicato all'Italia, alla realtà italiana, ai problemi italiani, però il primo capitolo è dedicato alla Germania, Europa tedesca o Germania europea. Ecco, professor De Doanna, è veramente la Germania il vincolo maggiore a cambiare la struttura della moneta unica, la struttura dell'unità monetaria europea? È un discorso molto delicato, guardi, in Germania c'è un grande dibattito politico-culturale, non è un caso, è forse il dibattito più intenso, più profondo, in un popolo che ha una grande tradizione filosofica. E noi pensiamo che in questo momento la posizione di quella linea di pensiero tedesco che fa capo ad Habermas, cioè che è un'idea ottimista, si può fare un'Europa repubblicana, democratica, se prevale un ethos europeo, e probabilmente i contrasti, diciamo, i conflitti che oggi sono in Germania sull'interpretazione della crisi riflettono un po' gli egoismi che ci sono ancora nei diversi stati nazionali. Poiché la Germania è quello che più è l'economia più forte in Europa ed è un'esperienza molto interessante di democrazia federale, forse in questo momento tocca alla Germania decidere, come si è detto, se vuole essere, come dire, la punta di ariete di un'Europa che va verso la federazione e quindi con tutto quello che ne consegue in termini di istituti, di integrazione eccetera, ha un'Europa fatta di tante economie che competono tra di loro. Naturalmente questa seconda ipotesi, questo secondo scenario è uno scenario distruttivo, insomma c'è poco da fare. Cioè, sì, probabilmente siamo al punto di culmine di una fase che può durare anche molto tempo, però o si va verso un nucleo federale di poteri, e in questo la Germania è quella che più ha peso per farci andare in quella direzione, insieme alla Francia e a noi, o viceversa se può aprirsi, potrebbe aprirsi un lento processo all'indietro, in cui gli stati si allontanano. E la crisi greca dice questo, in fondo. Ecco, sì. Ecco, potrebbe essere anche un elemento che spinge a un cambiamento di fronte a una crisi cui nessuno prevede, appunto, un'uscita della traumatica della Grecia dall'euro, se non qualche ipotesi così di scuola. Però ecco, di fronte a questa crisi potrebbe anche essere il momento di cambiare la prospettiva e di passare, voi dite a un certo punto nel vostro libro, passare dalla teoria del pareggio contabile alla teoria dell'equilibrio. Ecco, cosa vuol dire questo, professor Degni? Diciamo, intanto il nostro legislatore costituente ha saggiamente scelto di introdurre il termine equilibrio anziché pareggio, nonostante il titolo della legge insista su questo termine, cioè per dare una maggiore flessibilità alla riforma, che comunque a nostro avviso è assolutamente criticabile, perché già il sistema in cui era entrata l'Italia, l'adesione al patto di stabilità, le regole europee, che pure, come abbiamo detto prima, devono essere riviste, già garantiva, diciamo, una finanza verso l'equilibrio. Quindi il voler inserire all'interno della Costituzione un vincolo esplicito è a nostro avviso, e non solo a nostro avviso, diciamo, gran parte degli economisti si sono pronunciati in questo senso. Riportiamo nel libro la lettera che 9 economisti americani hanno scritto al presidente Obama, invitandolo assolutamente ad evitare qualsiasi inserimento di vincolo del pareggio all'interno della Costituzione degli Stati Uniti, perché la Costituzione è una norma che va interpretata, cioè non si possono inserire teorie economiche all'interno della Costituzione. E con l'introduzione del pareggio questo è stato fatto, e questo a nostro avviso è ad una scelta negativa. Ecco, in questa prospettiva però c'è un problema di equilibrio, appunto, dei conti pubblici in prospettiva nell'arco di un certo periodo di tempo. Professore De Ioanna, voi concludete il vostro libro parlando proprio della spending review italiana, dei passi da fare sul fronte del mettere in ordine i conti pubblici e soprattutto di superare quella che è stata un po' una mania, una moda spinta anche dalla politica, di un federalismo poi che è stato un federalismo confuso. C'è ancora molto da fare per sistemare i nostri conti pubblici, professor De Ioanna? Sì, c'è molto da fare, perché il problema dei conti pubblici è fondamentalmente, secondo la migliore letteratura economica e anche giuridica, un problema di controllo. Il debito, si usa dire, è come un ponte tra il passato, il presente e il futuro. Se è un ponte che costruisce cose solide, noi trasmettiamo ai figli delle cose solide. Se distruggiamo il presente col debito, trasmettiamo ai figli delle cose sbagliate o dei pesi. Ora, c'è molto da fare in Italia in termini, a mio modo di vedere, non di taglio lineare o indiscriminato della spesa pubblica, quanto invece in termini di riorganizzazione e rinnovamento della pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione è uno straordinario volano di coordinamento, di impulso. Oggi tutti parlano di investimento pubblico, però per investire bene ci vuole un'amministrazione pubblica sul territorio che scelga gli investimenti, li faccia, non sprechi risorse. Quindi, diciamo, nella competizione europea e globale noi abbiamo bisogno di una macchina pubblica efficiente che garantisca i cittadini con risposte certe, e quindi abbiamo bisogno di riorganizzare a fondo la macchina amministrativa pubblica, non di tagliare in modo indiscriminato. Ecco, questo è un po' quindi molto rimane da fare, ma in una spending che significhi soprattutto, come è capitato di dire in altre occasioni, innovare profondamente la macchina amministrativa, prendendo esempio anche in questo caso, perché no, dalla Germania, dai paesi nordici, eccetera. Discorso a parte andrebbe fatto per il federalismo. Io ho parlato di un federalismo sgangherato, senza senso. Se lei pensa che l'80%, il 70% della spesa regionale è sanità, e la sanità è un livello essenziale di cittadinanza, è forse la più cruciale delle questioni di cittadinanza la dice lunga sul, come dire, sull'erroneità di alcune scelte fatte nel 2001. Adesso qualcosa si sta modificando dal punto di vista delle competenze, quindi probabilmente, almeno da questo punto di vista, la riforma costituzionale ha in sé degli elementi di maggiore chiarezza. Rimane sullo sfondo un problema fiscale, ma insomma questo è un problema irrisolto, insomma, quello dei tributi propri, certo, delle regioni e degli enti locali. Un federalismo distorto è il titolo dell'ultimo capitolo, che peraltro si conclude non molto in maniera ottimista, perché dice che anche la riforma del 2014 rischia di complicare il quadro. Spesso le riforme complicano le cose precedenti invece di affrontarle. Un po' il problema italiano, questo federalismo ondeggiante, un grande federalismo con la prima riforma del titolo quinto, poi si è tornati indietro, ma il quadro non è ancora molto preciso, professor Degni. No, il quadro non è preciso. Diciamo, sì, sicuramente un passo avanti il superamento della competenza legislativa concorrente, che ha creato tanti problemi in questi anni, contenzioso davanti alla Corte Costituzionale e spese crescenti in molti settori. Però nel testo, per le mediazioni che sono state raggiunte, ci sono alcune cose che noi critichiamo, per esempio l'introduzione in Costituzione del concetto di costi e fabbisogni, certo, standard, no? Quello è un concetto molto importante che serve per sperimentare, cioè per trovare buone pratiche, per come dire, aumentare le informazioni di finanza pubblica, che sono una premessa fondamentale per delle politiche pubbliche efficienti, però non possono essere la base per stabilire rigidamente il trasferimento dal livello centrale a livelli intermedi, perché altrimenti si ripropone a livello centrale quello stesso vincolo stupido che un'interpretazione rigida del patto di stabilità tende a riproporre tra gli stati europei. Ecco, io siamo in conclusione, vorrei solo una battuta al professor De Ioanna. Comunque, dette tutte queste critiche, resta il fatto che la moneta unica europea può riservare molti più vantaggi che non problemi. Ma certamente è un fatto storico talmente innovativo che va difeso. Naturalmente va difeso in modo intelligente, cioè non è la moneta in quanto tale una convenzione, quindi è una convenzione storica. Va difesa però cogliendo gli aspetti di criticità e rilanciando in avanti. Questo è un po' il problema di fondo, certo, insomma. Non difendere la moneta o un'Europa della moneta in quanto tale, ma no, provare a costruire un'Europa politica fondata anche sull'economia e sulla solidarietà. Questo è fondamentale. Infatti, si può dare un respiro, insomma. E anche la moneta unica era stata vista come uno strumento per accelerare anche l'unità politica, poi qualcosa di diverso è successo in questi ultimi anni. Grazie al professor Paolo De Ioanna e al professor Marcello Degni, autori del libro Il vincolo stupido, Europa e Italia nella crisi dell'euro, edito da Castelvecchi, sono 232 pagine per 22 euro. Grazie anche a Luca Cremonese in redazione, a Pieter Bescapè in regia. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie, l'appuntamento è per sabato prossimo.